Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, puntata come immaginerete quasi tutta concentrata e dedicata alla decisione tanto attesa e poi arrivata dalla Banca Centrale Europea. Vi hanno già aggiornato i nostri GR24 e soprattutto faremo il punto sotto diversi aspetti. Da un lato la notizia in sé e quindi che cosa ha deciso la Banca Centrale Europea nel lasciare i tassi invariati. Ha lanciato l'attesissimo quantitative easing. Cosa vuol dire? Vuol dire che acquisterà titoli privati e pubblici per un ammontare da 60 fino a 60 miliardi di euro al mese a partire da marzo. Tanto poco? Beh, usiamo qualche raffronto. La Federal Reserve americana, nel momento in cui il quantitative easing si faceva e si faceva in maniera anche robusta, acquistava mediamente, stampava, quindi acquistava mediamente 100-130 miliardi di dollari al mese. L'America è un po' più grande, però che vuol dire che questa cifra non è una cifra enorme se si prende l'area euro nel suo complesso. È una cifra importante ma non enorme. Ancora, lo farà fino a settembre del 2016 o fino a quando l'inflazione si riporterà sui livelli desiderati. Allora, la prima notizia è che il piano comunque ha una dimensione superiore, non grande come quella americana, neanche lontanamente, ma superiore ai 50 miliardi attesi dagli analisti. Quanto vale nel periodo preso in considerazione? Complessivamente almeno 1.080-1.100 miliardi di euro. Quali acquisti verranno coinvolti? Le scadenze dai 2 ai 12 anni, quindi sono esclusi i bot a 6 mesi, a 3 mesi, i bot a un anno. E si arriva chiaramente ai BTP in misure proporzionali alle quote dei singoli stati nel capitale della Banca Centrale Europea. E qui però andiamo ai dettagli. Il rischio sarà per l'80% a carico delle banche centrali dei paesi dell'euro. E questa è la concessione che si è fatta alla Germania, nel senso che solo il 20% verrà condiviso a livello europeo. Infine, la Banca Centrale Europea potrà acquistare anche obbligazioni della Grecia, ma solo a partire da luglio. L'obiettivo, come abbiamo cercato di chiarire molte volte, non è, anche se uno potrebbe augurarselo, fare in modo che le banche prestino più soldi. L'obiettivo si chiama in primo luogo inflazione e in secondo luogo anche contenimento dello spread. Perché? Perché è chiaro che la banca questi titoli li va a comprare sul mercato secondario, dove si trattano le obbligazioni e quindi i titoli di Stato in questo caso, perché quando tu compri un titolo di Stato hai due possibilità: o lo tieni fino alla scadenza, hai un BTP, lo tieni per 10 anni e hai rendimento garantito perché è garantito dallo Stato, oppure lo vendi nel frattempo, e questo si chiama mercato secondario, laddove sappiamo che se i rendimenti sono attesi in calo i prezzi delle obbligazioni salgono, se i rendimenti sono attesi in salita i prezzi delle obbligazioni calano. Questo è un po', può apparire complicato, ma funziona un po' così. L'obbligazione che tu compri non vale 100, vale, poniamo, 98, e hai un rendimento a scadenza a 100, che vuol dire il 2%, poco di più. Ora, se nel frattempo le prossime emissioni, poniamo che uno compri un'obbligazione a 10 anni a 98 punti che a dopo 10 anni gli dà 100 e quindi un rendimento di un po' più del 2%, se nel frattempo i rendimenti delle obbligazioni emesse negli anni successivi aumentano, vuol dire che, poniamo che vadano al 3%, vuol dire che il prezzo scende al 97, allora tu ti ritrovi con un'obbligazione che hai pagato 98 ma che adesso sul mercato il prezzo nuovo è 97, ci vai a perdere. Se invece i rendimenti delle obbligazioni future calano e quindi dal 2%, poniamo il BTP va dall'1%, vuol dire che l'obbligazione vale 99 e tu che l'hai comprata 98 puoi rivenderla sul mercato guadagnandoci, la rivenderai diciamo a 98,9, ma la puoi rivendere sul mercato. Ecco perché se le attese adesso sono di rendimenti e quindi l'interesse pagato in calo sui titoli di Stato ha un senso, chi li ha comprati adesso ha un vantaggio, o chi li ha comprati nei mesi precedenti ha un vantaggio, perché magari li ha pagati 98 e andranno a 99 come prezzo. Quando invece i rendimenti sono attesi in aumento dei titoli di Stato, ci perde chi li ha comprati nei mesi precedenti, negli anni precedenti. Siccome i rendimenti in questo momento sono attesi in calo, la domanda è: ma chi ha comprato mesi fa? Beh, dovrebbe avere un certo guadagno nel rivendere sul mercato secondario. Ma ripeto, l'obiettivo non è della Banca Centrale Europea, non è dare più soldi all'economia, non è attraverso questo perlomeno, e sarebbe anche sbagliato che una banca, solo perché ha un acquisto da parte della BCE, si mettesse a prestare soldi senza il criterio di una sana e prudente gestione. Ma l'obiettivo è appunto di carattere inflattivo, cioè fare in modo che a un certo momento ci possa essere un'inflazione che ritorni sotto il 2%, ma vicino al 2%. I tassi di interesse nel frattempo sono rimasti fermi allo 0,05%. Ultima nota, come va la borsa? Allora, quella di Milano va meglio delle altre borse europee, che comunque sono tutte decisamente positive. Parigi più 1,50, Francoforte più 1,30, Londra più 1, l'America più 0,60. L'euro si è ulteriormente deprezzato, 1,14, 1 è vicino a quota 1,13. Milano guadagna il 2,12% grazie al mondo bancario in primis, ma va bene oggi anche Saipem sulle notizie di ieri e dell'altro ieri, più 3,80%, va bene l'energia con Snam più 3,15%, Terna più 3,11%, Enel più 3% e ancora, per quello che riguarda l'energia, Eni più 1,70%, A2A più 0,50%. Le banche, qui si somma il doppio effetto, Banca Centrale Europea, ma anche riforma decisa dal governo, che adesso deve andare in Parlamento, dello statuto che regola le popolari. Popolare Emilia Romagna più 4,5%, poi segue Mediolanum più 4, Azimut più 3,5, Unicredit più 3,20, Monte dei Paschi più 3%, Unipolsai più 3%, Pop Milano più 2,90%. C'è un altro ragionamento che sta facendo il mercato, ossia: se i rendimenti dei BOT e dei BTP sono previsti in calo, e quindi c'è un vantaggio per chi li ha comprati mesi fa, ma non c'è un interesse nei prossimi mesi a comprarli, parte del risparmio si dirigerà sul risparmio gestito. Ecco perché da alcune settimane assistiamo a ragionamenti su Mediolanum e su Azimut, i due principali titoli che si occupano di risparmio gestito, quotati in borsa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, e adesso le altre notizie in breve. Vedo molti messaggi, non ho capito, alcuni dicono no, lei dà delle spiegazioni da maestrino, però ragazzi vediamo di capirci, alcuni degli ascoltatori di questo programma da sempre ne sanno molto di economia e finanza, ne sanno anche più del conduttore, delle volte anche degli ospiti. L'obiettivo di questo programma è farsi capire da tutti. Se uno ne sa già tanto, ha tanti altri strumenti, può fare le sue correzioni, ma è un programma che si rivolge, se ce la fa, a un pubblico di non addetti ai lavori. Quindi non c'è nessun atteggiamento da maestrini, almeno spero, ma il tentativo di farsi capire, come dovrebbe farsi capire qualunque persona che sta da questo microfono e non vuole parlare ai 5.000, 10.000, 15.000 che già hanno le idee molto chiare, anche perché spesso ci lavorano. Non ho capito chi dice neanche nomini Oscar Giannino, tanto ti sta antipatico. Guardi, proprio lei si sbaglia, non solo non mi sta antipatico, ma penso di avere anche così contribuito e auspicato il suo ritorno, quindi proprio non ha capito nulla. Ma andiamo avanti sulle cose importanti. Le notizie in breve di questa giornata, partiamo anche dal petrolio a $47,3 il barile, leggermente in calo dell'1%. Nel frattempo però il colosso minerario anglo-australiano, la notizia di ieri sera, BHP, Billiton, ha annunciato che bloccherà, quindi fermerà il 40% dello sfruttamento delle piattaforme petrolifere di scisto negli Stati Uniti. Il numero di quello che è il primo gruppo mondiale passerà da 26, il numero delle piattaforme, a 16, per impedire che i volumi di petrolio prodotti dallo scisto aumentino di circa 50%. E questo è una risposta, lo ha detto tranquillamente il numero uno Andrew Mackenzie, al calo dei prezzi. E quindi sostanzialmente lo sfruttamento di queste piattaforme calerà del 40%. Avete ragione, scisto non si capisce, sono le sabbie bituminose, quelle da cui la fonte, diciamo, alternativa per estrarre petrolio, che su cui l'America molto ha investito e che ha creato una quasi totale autonomia petrolifera americana, e da lì il braccio di ferro con l'Arabia Saudita, che punta ad abbassare il prezzo del petrolio così tanto in modo da non rendere convenienti per gli Stati Uniti l'utilizzo delle sabbie bituminose. Leonardo Maugeri, però, uno dei massimi esperti di petrolio, ci ha spiegato due settimane fa che il prezzo di $100 vale solo per alcuni giacimenti. Altri giacimenti riescono a estrarre petrolio dalle sabbie bituminose anche a prezzi molto inferiori, di $65-$70, in alcuni casi $45. Quindi la scommessa dell'Arabia Saudita è una scommessa. Oh, veniamo all'Europa. Cioè, uno dice, attenzione, il rappresentante Hans Werner Sinn, non mi ricordo più se sia il presidente, forse è il presidente dell'IFO, che è l'istituto di ricerca tedesco, dice che il quantitative easing deciso oggi da Draghi è illegale e andrà valutato dall'alta corte tedesca. Mamma mia, la Karlsruhe un'altra volta, vabbè, no, non si rassegnano. Invece il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, che è direttore generale, ha detto oggi durante il World Economic Forum di Davos: il quantitative easing di Draghi ha già funzionato, è bastato vedere gli effetti creati dalle aspettative sull'intervento di Draghi, che hanno agevolato la svalutazione dell'euro. Quindi dice la Lagarde, il fatto che in queste ultime settimane, il fatto che sempre di più si scommettesse su quello che poi Draghi ha effettivamente annunciato, ha già avuto un suo effetto abbassando l'euro. L'euro ha perso circa il 16% del suo valore da settembre. Poi la Lagarde continua: la Banca Centrale Americana probabilmente alzerà i tassi entro la metà del 2015, con un immaginabile nuovo calo dell'euro, e da questo punto di vista questo è un buon segnale, perché vuol dire che gli Stati Uniti stanno crescendo. I tassi di interesse e il costo del denaro si aumenta quando un'economia va bene e invece si abbassa quando un'economia va male. Si aumenta quando un'economia va bene per raffreddare la crescita economica ed evitare che l'inflazione cresca troppo, i prezzi crescano troppo; si abbassano per liberare liquidità quando invece l'economia va male, è in stagnazione o in recessione. So che qualcuno scriverà: anche questa è una lezione da professorino, da maestrino, però non è detto che tutti abbiano perfettamente chiaro il rapporto tra tassi di interesse, inflazione e massa monetaria, abbiate pazienza. Allora, veniamo all'Italia invece. Oggi ci sono poche notizie di altro genere, però gli ordinativi industriali nel mese di novembre hanno fatto un meno 4%, è il dato peggiore dal 2013. E questa non è una buona notizia, perché un meno 4 rispetto all'anno prima e anche un meno 1 rispetto a ottobre vuol dire che l'Italia ha frenato, la produzione industriale ha frenato proprio negli ultimi mesi, quando uno invece dovrebbe aspettarsi, se si vuole fare un buon 2015, un abbrivio. Il fatturato ha fatto meno 1,6%, rispetto all'anno prima, novembre, il fatturato dell'industria. Come mai? Beh, l'Istat lo spiega in maniera molto chiara, anche perché abbiamo appena commentato i dati sull'export che vanno bene. Sono tornate a calare le vendite e di nuovo è andato male, si è contratto il mercato nazionale, cioè i consumi interni vanno sempre peggio, o meglio, sono tornati a essere negativi. Bene invece le vendite dall'estero, della nostra industria, che sono risultate positive. Ministro Poletti, ministro al lavoro, voi tutti abbiamo visto due giorni fa, abbiamo commentato la notizia che la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum indetto dalla Lega sulla legge Fornero. Oggi però il ministro torna sulla legge Fornero e dice: è necessario cambiare la legge Fornero e introdurre nella normativa previdenziale uno strumento flessibile che consenta a chi è vicino alla pensione e ha perso o rischia di perdere il lavoro di andare in pensione. È il tema famoso degli esodati, che fu, diciamo, c'era tutta, l'abbiamo detto anche in diretta durante quella, ne abbiamo parlato anche con l'allora ministro Fornero, che ha detto di aver sbagliato, che ha chiesto scusa in diretta nei nostri microfoni. Fu un pastrocchio, un pasticcio devastante, clamoroso, con decine di migliaia di persone, tra l'altro col balletto di cifre, con l'allora presidente dell'INPS Mastra Pasqua e ministro, su quanti fossero gli esodati, gente che era stata, magari aveva preso lo scivolo per uscire dall'azienda e poi non aveva gli anni maturati per la pensione e si ritrova nella terra di nessuno. Allora, lo dice anche tra l'altro il segretario generale della CGIL Carla Cantone, che dice: basta proclami sulle pensioni, che si debba intervenire lo sanno anche i muri, il problema è come si intende farlo, perché non vorrei che a qualcuno venisse in mente di peggiorare la situazione. Devo dire che ieri l'ex ministro del lavoro Elsa Fornero, ospite di Radio 24 di Alessandro Milan, 24 mattina, aveva commentato anche le parole di Salvini, però aveva anche detto che un miglioramento della riforma fosse probabilmente necessario. Quel linguaggio non mi appartiene e io sono certa che non appartiene alla stragrande maggioranza degli italiani. È facile appellarsi alla rabbia di alcuni, anche comprensibile. Vorrei chiedere soltanto che tipo di soluzione propone lo stesso segretario. Però non è il caso di abbassarsi, c'è un'istituzione che è la Corte Costituzionale, c'è un Parlamento che può anche modificare la Costituzione e quindi anche la Corte. Il partito di cui Salvini ha fatto parte ha, diciamo così, stato molte volte al governo, certamente un tempo molto molto più lungo di quanto non sia stato quello dato al nostro governo tecnico, in circostanze nelle quali, ripeto, noi siamo stati chiamati e i partiti hanno votato. Quindi io non ho proprio niente da rispondere a Salvini. C'è un Parlamento che potrà discutere, e io mi auguro che lo faccia con toni e con diciamo parole molto diverse. Vabbè, comunque adesso è inutile infierire, lo ammise ai nostri microfoni, fu una cavolata, dai, fu un pastrocchio bestiale quello degli esodati. Il problema vero è che nel frattempo non ci si è messo mano, e in questo ha ragione la SPI CGL, sul tema delle pensioni, o meglio al tema delle pensioni, sono dedicati 100 secondi di Radio 24 assieme a Radio Dimensione Suono di oggi. Il commento del vice direttore di oggi è quello di Salvatore Padula. Per farti volare come una freccia ci vuole tutta la nostra fibra, perché tu sei le nostre ali e noi il tuo motore. Tu e Fastweb siamo la fibra che vola. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. con Salvatore Padula. Si torna a parlare di pensioni. Oggi, forse per la prima volta in modo così esplicito e diretto, il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha riconosciuto che la riforma delle pensioni, quella fatta nel 2012 dall'allora presidente del Consiglio Mario Monti e dal ministro Elsa Fornero, va cambiata perché si rischia, ha detto chiaramente il ministro, di avere un problema sociale. La riforma del 2012 ha spostato in avanti l'età della pensione. Si parte da 66 anni, ma quest'età non è più fissa e cresce in funzione dell'aumento della speranza di vita. Sono circa 3 mesi in più ogni 3 anni. E soprattutto la riforma non prevede più nessuna possibilità di uscita anticipata. È un sistema che oggettivamente rischia di creare difficoltà alle persone vicine al pensionamento e che nella fase di crisi attuale hanno perso o possono perdere il posto del lavoro e non hanno la copertura di ammortizzatori sociali che li porterebbero fino al momento in cui poi maturano effettivamente la pensione. Quello che il ministro ha in mente è di intervenire sulla legge Fornero prevedendo strumenti flessibili che possano accompagnare i lavoratori al pensionamento, come per esempio il prestito previdenziale, vale a dire un anticipo della pensione che poi verrebbe restituito una volta raggiunti i requisiti per la pensione stessa, oppure la staffetta generazionale con un lavoratore anziano che riduce le sue ore lavorative anche per favorire l'assunzione di giovani. Sono strumenti che dovrebbero aiutare i lavoratori senza mettere a rischio i consistenti risparmi che ha garantito e garantisce la riforma sul fronte della tenuta dei conti pubblici. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, si vede ancora molti commenti sulla Fornero, sul tono arrogante. Vabbè, adesso però il problema vero non è il tono arrogante, il problema vero è cosa capita ai cinquantenni vicini che hanno accettato l'esubero o lo scivolo e non beccano ancora la pensione per quella cavolata totale fatta nella riforma Fornero, perché voglio dire, no? Vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, iniziamo con Draghi, una pagina lunghissima, la borsa ha chiuso più 2,44%. E allora, dopo il meteo e la pubblicità, partiamo ad ascoltare le frasi principali del Presidente della Banca Centrale Europea che ha annunciato gli acquisti da 60 miliardi di titoli di Stato dei vari paesi dell'area euro sul mercato secondario in primis da qui fino a settembre del 2016. Prima però il meteo. On a regular economic and monetary analysis. Sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lanciare un acquisto di asset che comprende anche quelli esistenti di titoli pubblici e privati. Secondo il programma, si tratta di acquisti mensili per 60 miliardi. Gli acquisti saranno portati avanti fino a settembre 2016. In ogni caso, il programma continuerà fino a che non vediamo un aggiustamento significativo del tasso di inflazione, ossia in linea con il nostro obiettivo di un'inflazione inferiore, ma vicino al 2% nel medio termine. A marzo 2015 inizierà l'acquisto di titoli europei di governi e istituzioni nel mercato secondario e saranno basati su un criterio di condivisione del rischio sulle quote delle banche centrali nel capitale della BCE. On the Eurosystem, National Central Bank's shares in the ECB's capital key. Allora, Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte. Buonasera, innanzitutto, corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera, Alessandro. Buonasera a voi. Ecco, ti sentiamo male, magari sistemiamo l'audio. Allora, questa è la frase in cui Draghi annuncia che gli acquisti saranno fino a 60 miliardi al mese da settembre 2016. La prima sorpresa, magari minore, è sull'ammontare, si stimavano 50 miliardi, ma la seconda sorpresa, forse più negativa, è sulla condivisione dei rischi, cioè l'80%, Alessandro, se lo caricano le banche centrali di singoli stati e il 20% è della BCE? Allora, direi che c'è un altro elemento di cui dobbiamo tener conto. Sì. Ecco, mi sento male, comunque devo dire che c'è un altro elemento di cui dobbiamo tener conto. La differenza fra 50 e 60 miliardi è in realtà data dal fatto che vengono inclusi in questa cifra gli acquisti che la BCE già faceva titoli obbligazionari garantiti delle banche e di titoli cartolarizzati, cosiddetti ABS, quindi questa è la differenza. In realtà i titoli di Stato saranno circa 50 miliardi al mese. L'altra cosa importante da sottolineare è che Draghi ha detto continueremo a comprare in pratica finché le condizioni dell'inflazione non siano normalizzate, quindi questo primo annuncio, questi primi 1.140 miliardi di euro potrebbero diventare di più se nel prosieguo della situazione si dovesse vedere che in realtà la situazione non si normalizza affatto con questi acquisti, e questo secondo me è un segnale importante. Dall'altra parte, come hai sottolineato, il grosso del rischio viene sopportato dalle banche centrali nazionali, e questo indubbiamente è un segnale di frammentazione, di segmentazione del mercato. Ma è il prezzo che Draghi ha dovuto pagare alla Germania? Alle pressioni tedesche che dicono noi non vogliamo trovarci in caso di un default a pagare per il debito italiano, perché poi alla fine, parliamoci francamente, il vero problema è sempre stata l'Italia. Draghi ha minimizzato questa situazione dicendo questo non riduce assolutamente l'efficacia dei nostri interventi. Questo secondo me è vero al momento attuale, cioè in una situazione favorevole di mercati. Non è vero se dovesse esserci una nuova ondata speculativa, crisi acuta, allora l'investitore potrebbe chiedersi perché devo tenere in bilancio nel mio portafoglio questi titoli quando la BCE rifiuta di tenerli se non in percentuale minima e le altre banche centrali internazionali non vogliono i titoli italiani o spagnoli. Allora, sì, hai ragione Alessandro, nel senso che adesso che lo spread è sceso anche a 108 punti, lo spread è basso, non ci sono tensioni sui titoli di Stato, uno dice vabbè, però dovesse mai ripartire quello che è successo, riaccadere quello che è successo a fine 2011 e inizio 2012, attacco speculativo all'euro, dubbi e fuga da alcuni paesi, è chiaro che quando tu vedi che l'80% dei titoli comprati ce l'ha in pancia la Banca Centrale Italiana in questo caso e solo il 20% la BCE, fai due ragionamenti. A, che il rischio è rimasto interno al paese, Alessandro, perché poi di fatto questo è. E B, quello che dicevi tu, attenzione, ma se la BCE non ha voluto, se gli altri paesi dell'area euro hanno spinto che la BCE non avesse non avesse una grande parte di questi titoli di Stato, perché devo tenermeli io? Tu dicevi che Draghi ha un po' minimizzato, è vero, ha detto questa scelta dovrebbe aiutare a mitigare le preoccupazioni di alcuni, tradotto della Germania e dei suoi satelliti. With regard to the sharing of hypothetical losses, riguardo alla condivisione di perdite ipotetiche, il Consiglio ha deciso una piena condivisione degli ipotetici rischi sugli acquisti di titoli emessi da istituzioni comunitarie, che rappresenteranno il 12% degli acquisti totali. Sugli altri acquisti di titoli, i rischi ricadranno sulle banche centrali nazionali, di cui tuttavia la BCE rileverà un 8%. Queste proporzioni implicano che il 20% degli acquisti saranno soggetti a condivisione dei rischi. Vorrei sottolineare che sono stupito del fatto che la questione della condivisione dei rischi sia diventata la cosa più importante della nostra decisione odierna di politica monetaria. Ma non dovrebbe essere così. Con la limitata condivisione dei rischi prevista nel piano di acquisti di titoli, volevamo un sistema che mitigasse le preoccupazioni di alcuni paesi di potenziali conseguenze non volute nel futuro. Of potential developments in the future. Allora, questo è il modo in cui Draghi ha cercato un po' di tranquillizzare, minimizzare su questo aspetto, che obiettivamente però, insomma, diciamola tutta, quando la Federal Reserve è vero che è diverso, gli Stati Uniti sono diversi dall'area euro, però la Federal Reserve non ha detto il rischio del quantitative easing lo metto in capo allo Stato della California per l'80%, allo Stato di New York per l'80%, si è presa tutto il carico negli Stati Uniti. Da noi funziona in maniera un po' diversa. E Alessandro, poi lo chiederò anche agli altri ospiti, questo dalle impressioni che tu hai raccolto rischia un po' di ridurre gli effetti positivi del quantitative easing? Ma per il momento la cosa alla quale guardavano i mercati era soprattutto l'importo, sì. Il fatto di averlo sommato a questa dichiarazione sul fatto che è possibile che addirittura gli importi poi vengano aumentati o prolungati nel caso di necessità, questo secondo me è la cosa al momento più importante, perché come dicevamo prima le condizioni di mercato sono tutto sommato favorevoli, stanno andando nella direzione di cui diceva la BCE. Cosa dovrebbe succedere nel caso di un altro momento di turbolenza è difficile da dire. Certo è stato fatto un conto, parlavo poco fa con un gestore di uno dei più grossi hedge fund e mi diceva il calcolo se ogni mese comprano 50 miliardi di dollari, di euro di titoli pubblici, i titoli italiani sono circa 7,7 miliardi, di questi la BCE ne compra 0,7, quindi si parla veramente di cifre molto molto piccole, cioè la cifra in carico alla BCE di debito italiano su 50 miliardi sono 700 milioni, insomma, stiamo parlando veramente di pochissima cosa. Allora, e poi Draghi, a dimostrazione, dico io, che le pressioni sono state fortissime, probabilmente più forti di quanto noi riusciamo a immaginare e raccontare, contro questa mossa, ha dovuto di nuovo tranquillizzare, ha detto attenzione, questo non è assolutamente un finanziamento al debito degli stati. Beh, col fatto che poi l'80% se la carichi la banca centrale di uno stato, vorrei anche vedere. Sentiamo questo passaggio. It would be a big mistake. Sarebbe un grande errore se i paesi pensassero che questo programma di acquisti di titoli sia un incentivo all'espansione dei bilanci degli stati. Questo minerebbe la fiducia. Non è assolutamente un finanziamento dei debiti, anzi, è stato elaborato per evitarlo. Questo programma dovrebbe aumentare la capacità delle banche di prestare denaro. La BCE comprerà titoli e così le banche avranno liquidità. Questo denaro potrebbe anche essere lasciato in deposito, ma in questo caso le banche pagherebbero un tasso negativo. Quindi c'è un incentivo a prestare denaro al settore privato, un incentivo ancora più forte rispetto a quanto avevamo fatto in passato con i programmi precedenti. Stronger incentive than there was in the past. Allora, no, sorrido Alessandro perché c'è un ascoltatore che ci ascolta tutti i giorni, non manca una puntata per commentare sempre lei le capite dei padroni schiavo della Confindustria. Ma guarda che il mondo è bello, perché però non se ne perde una, fossero tutti così faremmo 10 milioni al giorno. Allora Alessandro, ha dovuto spiegare, giustificarsi Draghi. Quando Draghi dice vi è stata una larga maggioranza su questo piano di acquisti titoli di Stato, ma non c'è stato bisogno di votare, a te risulta che appunto le frizioni ci sono state, ma poi alla fine lui è riuscito a trovare un punto mediano, per questo che cita il fatto che non si è votato? Non si è votato secondo me perché alla fine c'è stato un dissenso abbastanza circoscritto. Sto ancora cercando di capire, con contatti con diverse banche centrali e partecipanti alla riunione, di che entità sia stata questa larga maggioranza, però credo che è probabile, se Draghi ha detto questa cosa, che sia stata contenuta ai due tedeschi, cioè al presidente della Bundesbank Weidmann, membro tedesco del Consiglio esecutivo Sabine Lautenschläger, che ricordiamo che fino all'anno scorso era la vicepresidente della Bundesbank, e probabilmente un altro paio di governatori, probabilmente non di più. Olanda e Austria. Però questo sto cercando di fare di indovinare, ecco, dal tono delle dichiarazioni di Draghi. L'Austria sicuramente era a favore del QE, l'olandese aveva detto che se fosse stato limitato al risk sharing eventualmente era favorevole, però ci sono alcuni candidati che di solito si allineano con i tedeschi, cioè i lussemburghesi, i baltici, non è chiaro, però insomma non voglio... Draghi su questo però ha fatto capire, ripeto, che larga maggioranza, attenzione perché questo può sembrare un elemento specioso, non è così, diciamo la BCE è abituata, tanto più la decisione è unanime, tanto più, diciamo, politicamente forte. Quindi la Banca Centrale Europea è abituata spesso a prendere decisioni in maniera unanime. Quando questo non è un po' una notizia, come diceva Alessandro Melli, c'era da attenderselo, perché la contrarietà di Weidmann l'ha spiegata in tutti i modi possibili. Ho il traffico e poi Alessandro ancora una domanda, e poi passiamo invece ai consigli per i risparmiatori, cioè cosa capiterà adesso, quali sono gli obiettivi finanziari di questo piano, ma cosa capiterà a chi ha obbligazioni, a chi vuole comprarle e quant'altro. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Il Consiglio è stato unanime nell'affermare che il piano di acquisti sia un vero strumento di politica monetaria. Questo è importante perché si stabilisce il principio che questo sia uno strumento di politica monetaria che può essere usato nella giusta situazione, ma che fa parte della nostra gamma di strumenti. In secondo luogo, c'è stata una larga maggioranza sul fatto che ora fosse il momento di far scattare il piano di acquisti di titoli. Una maggioranza così ampia che non c'è stato bisogno di votare. C'è stata discussione sulla necessità. Direi quindi una maggioranza sul fatto di far scattare ora il piano, ma certamente i punti di vista sono stati diversi. Infine, c'è stato consenso sulla condivisione del rischio al 20%. Allora, fermo restando che il piano è leggermente più alto, insomma, con quel calcolo di 10 miliardi di quanto atteso, 60 miliardi, che però è molto molto molto meno rischioso per la Banca Centrale Europea, quindi per tutti gli europei, per il rischio comune, perché solo il 20% degli acquisti se lo becca la BCE, il resto se lo beccano le singole banche centrali. Alessandro Merli, adesso Draghi le armi non convenzionali, famosa frase di 2 anni fa, mi sembra che le abbia utilizzate quasi tutte, cioè manca solo il prestito diretto ai cittadini. Beh, con quello che ha detto oggi può modificare i termini di questa operazione, quindi comprare più titoli di quelli che ha detto, oppure allungare i tempi di questi acquisti, per cui questo è un po' l'elemento cruciale. Poi naturalmente anche questo è già troppo, vedo già delle reazioni in Germania. Sì, c'è quello dell'IFO che vuole fare ricorso alla CARS2, alla Corte Costituzionale tedesca. Palle, cioè che scatole, voglio dire. Avete avuto il quantitivising più morbido, più diluito, immaginabile, ancora vuoi fare ricorso. Ma staccati dall'Europa a sto punto, invece che stare in classe a rompere, visto che parliamo delle classi, a rompere tutti i giorni. Vabbè, questo è un mio commento. Mi chiedevo se il rischio delle armi finite fosse un rischio reale, Alessandro, cioè... Dopo di questo che manca? Beh, direi che a questo punto siamo arrivati, bisogna sperare, come diceva la Bundesbank, che il calo del prezzo del petrolio faccia da stimolo e con esso anche il ribasso dell'euro e che questo normalizzi la situazione. L'altra carta appunto è quella di modificare i termini di questi acquisti che sono stati annunciati oggi, con gli acquisti di maggiore importo, oppure accelerare questa operazione. Allora andiamo sulla borsa, l'anticipo io, poi il commento dopo il GR24, nel ringraziare intanto Alessandro Melli in collegamento con noi da Francoforte. La borsa come ha reagito? Bene, subito, poi sono rimaste, sì, tutte positive, ci mancherebbe. Quando si è capito che poi l'80% andava sulle banche centrali, diciamocela tutta, chi aveva messo entusiasmi eccessivamente elevati si è un po' raffreddato. Più 2,44% Milano, più 1,50% Parigi, più 1,30% Francoforte, più 1% Londra, l'America che nulla c'entra, più 0,50%. I titoli, Pop Emilia Romagna più 4,70%. Però poi se guardiamo bene sono altri titoli oltre che bancari a crescere. Mediolanum più 4,40, qui c'è un ragionamento sul risparmio gestito. Saipem più 4,40, nuove possibilità per il gasdotto. Unicredit più 3,70, qui è bancario. Buzzinice più 3,60, Azimut di nuovo risparmio gestito più 3,60, Snam ed Enel più 3,5%. Da qui ripartiamo dopo il GR24, 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. alle 18:09, riprende Focus Economia. Allora, restiamo sul tema principale, sul tema quasi unico oggi, commentando però anche la borsa. Ripeto, annuncio di Mario Draghi, piano di acquisto di titoli di Stato dei paesi dell'area euro da 60 miliardi, alzabili poi, aumentabili poi, fino al 2016. Ma ha spiegato Draghi fino a settembre 2016 che potrebbe anche andare oltre e comprare di più. Questa, diciamo, è la buona notizia. La notizia un po' più non cattiva, ma insomma che ha un po' raffreddato gli entusiasmi, è che l'80% di questi acquisti saranno in carico alle banche nazionali dei singoli paesi, la Banca d'Italia nel caso nostro, il 20% sarà in carico alla Banca Centrale Europea. C'è un'osservazione interessante di un ascoltatore, a cui arrivo fra un attimo, perché prima vorrei concludere l'approfondimento di borsa, fermo restando che questa è stata la notizia principale su cui sono mossi i titoli. Saluto e ringrazio Guido Maurino del Sole 24 Ore, di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Guido. Buonasera. E quindi Pop Emilia Romagna e poi la vicenda delle popolari, va bene. Pop Emilia Romagna più 4,70, Unicredit più 3,70, ancora Monte dei Paschi più 3,30, Mediolanum più 4,40, Risparmio Gestito ne beneficia per quello che dicevamo prima, più 3,60 anche Azimut, e poi Unipolsai più 3,20, Pop Milano più 3%, Intesa San Paolo più 2,11%, UbiBanca più 1,90, Generali più 1,80. Andiamo su altri titoli. Saipem, di nuovo le voci di un possibile progetto alternativo South Stream più 4,40. Vorrei capire invece il settore energia da un lato e il settore lusso. Oggi Ferragamo meno 1 e Tod's meno 1,60. Prego. Allora, per quello che riguarda il settore energia, oggi si è messa in luce soprattutto Saipem, come era già avvenuto ieri. Il titolo ha guadagnato oltre il 4% grazie a una serie di ragioni. C'è quella che citavi tu, appunto, che è il nuovo progetto di gasdotto di cui si parla, che attraverserebbe la Turchia e che potrebbe vedere Saipem come uno dei possibili fornitori, e che quindi sta ridando un pochettino di spinta al titolo dopo l'abbandono alla fine del 2014 del progetto South Stream. C'è anche il parziale recupero del prezzo del petrolio che avevamo visto nei giorni scorsi, ma non oggi perché è tornato a scendere, ma nei giorni scorsi il parziale recupero del prezzo del petrolio aveva spinto un po' tutti gli energetici, e questo si era anche visto ieri a Wall Street. E poi ci sono anche una questione di soglie tecniche. Il titolo si era avvicinato a quota, sì, a quota 7 euro ed è rimbalzato verso ora a quota 8 euro. Per quello che riguarda invece il lusso, c'era attesa per i conti di Tod's, che oggi ha dato i preliminari. I titoli del settore erano cresciuti abbastanza nei giorni scorsi, oggi ci sono state un po' di prese di beneficio. Comunque i conti di Tod's, diffusi poi a borsa chiusa, mostrano un andamento dei ricavi superiore all'attesa, quindi può darsi che domani ci sia qualche novità in senso positivo. Allora, ultimo titolo, Finmeccanica, e qui c'è la divisione trasporti, sempre. Prego. Sì. C'è sempre la divisione trasporti che deve essere venduta. Ieri c'è stato un ulteriore passaggio in CDA, si è dato mandato all'amministratore delegato Mauro Moretti per andare a una conclusione delle trattative. Il mercato si attende che già nel CDA del 27 gennaio potrebbe essere decisa la cessione con la scelta del partner. Allora, adesso andiamo, lo dico a molti ascoltatori che scrivono, a cercare di capire cosa capiterà dopo quanto deciso dalla Banca Centrale all'euro, sul dollaro e sulle altre valute e ai titoli di Stato. Devo dare però migliori e peggiori. Popolare Etruria Lazio di nuovo più 13%, poi Rai Way più 9%, Cattolica Assicurazione più 8,60, Gabetti più 8,40, L'Espresso, dopo aver ceduto All Music, guadagna il 6,80%, Tiscali più 6,30. Fronte opposto, Industria e Innovazione meno 7,14, Visibilia meno 4,90, Lucisano Media Group meno 4,70, ho visto anche il Leone, ma adesso l'ho perso di vista. Leone Film Group, l'avevo detto, più 8%, Monriff meno 3,40% e poco altro. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. E invece adesso parliamo degli effetti della mossa di Draghi su euro e titoli di Stato italiani. Allora, una vecchia conoscenza per chi conosce Radio 24, sia come Salvadanaio, che adesso si chiama Cuore Denari, che come Focus Economia, che adesso si chiama Focus Economia, è Angelo Drusiani, collaboratore del Albertini Sim. Buonasera, dottor Drusiani. Buonasera, vecchio anche dal punto di vista anagrafico, intende? Vecchio dal vista, beh, insomma, se è tanti anni che c'è, sarà invecchiato pure lei, e che c'è l'elisir. Allora, Drusiani, molto secche le risposte, perché poi vorrei arrivare a un ultimo punto che mi segnala un ascoltatore. Primo, cosa capiterà al rapporto euro-dollaro, euro-svizzero, franco-svizzero, euro-yen? Io credo che, così come è successo con il dollaro americano, che nel corso di questi anni si è svalutato in maniera importante proprio in coincidenza con le quantità di leasing che è stato effettuato, esattamente succederà l'euro, probabilmente scendendo ulteriormente. Non credo che arriverà in parità in tempi brevi, però non si può neppure escludere che possa arrivare già 1,10 nell'arco delle prossime settimane. Come è capitato al dollaro, ricordiamo che dal 2009 l'America inizia a stampare moneta con un quantitative easing pesantissimo, e il dollaro inizia a svalutarsi, infatti l'euro arriva fino a quota 1,40, 1,44, 1,48. E tra l'altro aggiungo io, se poi la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, dovesse alzare i tassi di interesse a metà anno, sarebbe un elemento in più per comprare dollari e vendere euro, perché più ha il tasso di interesse, più rende la valuta, no? Certamente, è abbastanza probabile che possa farlo tra giugno e settembre, forse giugno non del tutto, perché qualche problema a livello il tasso di occupazione c'è ancora, quindi probabilmente il governatore aspetterà, Yellen aspetterà ancora qualche tempo prima di intervenire, anche perché ha paura che poi siano dei riflessi negativi sui mercati. Cosa capiterà ai titoli di Stato italiani, fermo restando che se i rendimenti dovessero scendere, chi li ha adesso ne ha un guadagno, perché aumentano i prezzi, e invece se i rendimenti dovessero salire, chi li ha adesso ne ha una perdita, perché i prezzi calerebbero? Prego. Io credo che nell'immediato ci possa essere spazio ancora, perché il differenziale tra Italia e Germania dei titoli di 10 anni scenda. Cioè che i BTP nostri rendano un po' di meno? Sì, se non renderanno ancora di meno, scenderà sotto 100 quasi sicuramente, perché l'effetto è molto importante, non tanto perché acquisteranno dei titoli per l'acquisto dei titoli di Stato, quanto per il segnale che è stato dato. Quindi nell'immediato è abbastanza probabile che le quotazioni dei titoli decennali in particolare, ma anche quelli degli altri, saliranno ancora, con ovviamente con riflesso negativo sul rendimento, ma per chi dovesse investire adesso, perché lei portafoglio, giustamente come lei ha sottolineato, ci saranno solo guadagni dal punto di vista del capitale. Per cui chi li ha già comprati in questi mesi avrà, se tutto va come si dice, l'opportunità di venderli sul mercato secondario guadagnandoci, perché i rendimenti saranno in calo e i prezzi saranno in aumento. Tu l'hai comprato, dico una cifra a caso, a 96, il prezzo va a 98, tu lo vendi a 97,9, ci guadagni. E comprarli adesso invece no, o comprarli nei prossimi mesi no, Drusiani, per lo stesso motivo. Esattamente, sa qual è il problema? Che vendendo adesso, anche guadagnando sensibilmente, poi molti che amano il flusso cedolare non sanno dove investirli, perché sicuramente i flussi cedolari di oggi sono un quinto, un sesto di quanto lo erano alcuni anni fa, e di conseguenza quelle entrate a cui danno molta importanza verrebbero meno, però ci sarebbe un guadagno in conto capitale non trascurabile. Magari uno fa un'altra cosa, si compra una casa, chiude un mutuo, non so. Però l'importante è dare l'indicazione che se li avete già in portafoglio, visto che i rendimenti caleranno, avrete occasioni ancora migliori per venderli. Se non li avete ancora in portafoglio, iniziare a immaginare di comprare nei prossimi mesi BTP con prezzi in calo, insomma, sì, può essere un rischio, ecco, perché se non li porti a scadenza e comunque i rendimenti sono bassi, ecco perché si muovono i titoli del risparmio gestito, a mio avviso, Drusiani, perché molti iniziano a scommettere che con questi rendimenti in calo la gente si muoverà anche sul risparmio gestito. Dopo il traffico, le informazioni sul traffico, nel ringraziare anche il dottor Brunello Rosa, che è capo economista del Rubini Global Economics, che è il centro studi dell'economista Nuri Rubini, lo ricorderete, Dr. Doom, quello che per primo ebbe la capacità di prevedere la crisi. Buonasera Rosa, mi sente? Sì, buonasera. Ecco, dopo vorrei capire una cosa da tutti e due. Mi ha scritto un ascoltatore, attenzione, la questione dell'80%, cioè il fatto che questi acquisti per l'80% li faranno le banche centrali dei singoli paesi sui loro titoli di Stato e solo il 20% in carico alla BCE, è solo per far sta zitti gli ignoranti politici tedeschi, perché le banche nazionali non possono più stampare moneta e sarà comunque la banca centrale a finanziare il 100% degli acquisti stampando moneta, con la sola differenza tecnica che però I titoli di Stato saranno depositati presso le banche nazionali come attivi e i passivi iscritti nella Banca Centrale Europea. Quindi le cedole, i guadagni se le prenderanno le banche nazionali, e visto che il tasso di interesse di un BTP italiano sono comunque più alti rispetto a quelli tedeschi, la Banca d'Italia guadagnerà più della Banca Centrale Tedesca. È un po' complicato, ma sta a dire attenzione. La questione dell'80% è puramente formale, perché i soldi comunque li deve mettere la Banca Centrale Europea. Dopo il traffico, le vostre opinioni. Allora, chiara la domanda o l'analisi. A noi risulta però che Draghi abbia detto che i rischi sono a carico 80% banche nazionali, 20% BCE. Però vorrei la vostra opinione. Allora, prima Angelo Drusiani e poi chiaramente Brunello Rosa. Drusiani. Sì, anche a me risulta che siano i rischi emittente, che siano i rischi di perdita sui titoli che siano a carico all'80% alle banche locali, al 20% alla Banca Centrale Europea. Sì, anche a me. Quindi, comunque, è sicuramente la trovata Draghi doveva mediare in qualche modo. Ma io non mi sto lamentando, qualcuno dice lei è deluso da Draghi, ma no, è chiaro. No, che ma che deluso, aveva Weidmann lì tutti i giorni che gli rompeva le scatole, capito? Allora, come un mantra. Tutti i tedeschi, gli olandesi, i lussemburghesi, dimmi. Faccio da ricordare a quei signori che dicono così che Trichet, in fase di economia in crisi, alza i tassi due volte, quindi lamentarsi Trichet di Draghi ci vuole un bel coraggio, secondo me, un bel coraggio davvero. Allora, dottor Rosa, intanto un suo giudizio complessivo e poi se ritiene che tutto sommato il bicchiere sia mezzo pieno, perché un po' di mediazione, qualche concessione Draghi ai tedeschi doveva dargliela. Sì, senz'altro. Allora, bicchiere diciamo mezzo pieno, nel senso la valutazione è positiva, soprattutto il fatto che il programma potrà essere esteso oltre al 2016 a alcuni aspetti di natura open-ended, come si dice, anche se non completamente, perché insomma diciamo così la condizionalità per estenderli ulteriormente è un po' vaga, ma questo ci si poteva aspettare perché rientra nelle negoziazioni che ci saranno in futuro. La questione dei rischi ovviamente a un certo punto è diventata, sembrava la più importante. Allora, io avrei due valutazioni da fare su questo. Sì. Primo è che secondo me Draghi ha fatto bene a fare uno scambio tra un programma più largo e più inclusivo, che tra l'altro include la Grecia, volendo, con una suddivisione dei rischi forse non ottimale. La seconda è che comunque l'ascoltatore colui che gli ha mandato il messaggio in gran parte probabilmente ha ragione, nel senso che anzitutto la liquidità creata dall'acquisto dei bond è fungibile su tutta l'eurozona. Questo è il primo caso. Il secondo caso è che comunque nel caso un paese fallisse uscisse dall'eurozona tramite i cosiddetti balances di target 2 le perdite verrebbero comunque ripartite tra tutti quelli che vi rimangono, compresa la Germania, per parlarci chiaramente. E in ogni caso, mettendo il caso in cui si stia parlando di un piccolo Stato che fa una qualche forma di default, ma rimanga nell'eurozona, poniamo la Grecia, stiamo parlando di quantità, visto quanto viene comprato, piccolissimo. Se invece i tedeschi sono preoccupati riguardo all'Italia, alla Spagna, paesi più grandi, voglio dire, se l'Italia e la Spagna fallisce, non è che dobbiamo andarci a preoccupare della ripartizione delle perdite dal QE. Cioè, ci sono rischi sistemici enormi che si ripercuotono su di tutti, compresi i tedeschi. Quindi alla fine, secondo me, Draghi ha fatto bene a scegliere questo. Ho un'ultima domanda, ma ho solo 4 minuti per tutti e due. Draghi ha detto questo lo manterremo finché l'inflazione non torna a un livello accettabile, più bassa ma vicino al 2%. Il rapporto tra questa mossa e l'inflazione, Drusiani, e invece Rosa, perché questa mossa non servirà di fatto a prestare più soldi all'economia. Drusiani, un minuto. Io credo che le banche che venderanno i titoli avranno la possibilità di finanziare maggiormente l'economia di quanto hanno fatto fino ad oggi, quindi da un punto di vista teorico è chiaro che questa mossa, così come sta accadendo lentamente, molto lentamente negli Stati Uniti, dovrebbe portare l'inflazione a salire, ma in maniera molto graduale, quindi ci vorrà molto più tempo di quanto si possa pensare. Quindi giustamente io credo che a settembre 2016 l'operazione verrà riproposta. Ok, io le avevo chiesto a Luciano di spiegarmi perché e come Draghi pensa in questo modo di portare l'inflazione un po' più alta, visto che... Perché girando, arrivando più soldi all'economia, le persone sono indotte a spendere di più, di conseguenza le quotazioni dei prezzi dovrebbero salire. Così è la regola, poi se accadrà non si sa bene. E quindi lui dice, io do una nuova possibilità, a questo punto l'economia dovrebbe, ha un ulteriore elemento per tornare a crescere, se torna a crescere, torna a crescere l'inflazione, poi io mi fermo. Rosa, molti sono scettici sull'idea che questa mossa poi permetta alle banche di prestare soldi alle piccole e medie imprese, visto che parliamo dell'Italia. Sì, beh, il canale di trasmissione dal QE all'aumento dei prestiti alle imprese non è chiarissimo. Per come il settore, e non è automatico, diciamo, no, esatto, quindi direi che non era quello il canale. Quello si è cercato di riattivarlo con i TLTROs, che però non hanno avuto una grande risposta. Cioè i prestiti alle banche che decisi a settembre, a patto che li riutilizzano per l'economia reale, non per i mutui, ma che hanno avuto poche domande, domanda bassa, poche domande per due ragioni. Primo, perché la gente, qualcuno si aspettava che comunque QE arrivasse, quindi tanto valeva aspettare liquidità incondizionata invece che condizionata. Secondo, perché poi la condizionalità dei TLTRO era molto limitata, per cui alla fine si poteva benissimo comprare titoli di Stato con quella liquidità, non c'era veramente la necessità di espandere prestiti all'economia reale. Per cui insomma, diciamo, tutta quella parte lì rimane molto complicata, c'è un fattore di domanda ancora molto forte, cioè fin quando non riparte la vera domanda di prestiti, e questa riparte solo quando ci sono aspettative di crescita sostenute, anche l'offerta di prestiti non riparte. Quindi insomma, non è quello il canale principale tramite cui QE funziona. Certo. Il canale principale è la svalutazione del cambio. Esatto. No, insomma, l'effetto di questa mossa, per concludere questa puntata quasi monografica, è il seguente: l'euro si abbasserà ancora un po' nei confronti del dollaro e anche, immagino, del franco svizzero e dello yen, lo spread, i rendimenti dei titoli di Stato anche italiani dovrebbero calare ancora un po' e quindi ridursi lo spread ed essere messo più in sicurezza, diciamo, il contesto del debito, oltre che dare una mano all'economia, sì, l'euro basso. Tutto il resto però non dipende da Mario Draghi e quindi non chiediamo a Draghi quello che Draghi non può fare. Grazie ad Angelo Drusiani da un lato, grazie anche a Brunello Rosa, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi torniamo domani senza fare i maestrini, ci mancherebbe, dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.